sono due aspetti, di cui uno effettivamente è sotto i nostri occhi, soprattutto nell'ultimo periodo. Allora, da una parte c'è il controllo della rete generale, ma non solo della rete, naturalmente di tutti i mezzi di comunicazione, le email, gli stessi messaggi dei telefonini. C'è un sistema sempre più avanzato, soprattutto nei paesi occidentali, ed è un sistema organizzato dai paesi anglosassoni, quella che è chiamata Echelon, che è una rete di controllo di tutte le trasmissioni elettroniche che avvengono nel mondo attraverso dei filtri e delle parole chiave, cioè se in uno stesso messaggio vengono riscontrate quattro parole considerate sensibili, questo messaggio verrà filtrato e ricontrollato. Allora, questo sistema, che è stato scoperto non troppo tempo fa, perché gran parte dei governi europei non erano direttamente a conoscenza, detto soprattutto dal governo americano, ha funzionato ed è stato molto utile per rintracciare alcuni gruppi o alcune cellule terroristiche islamiche. Presumo che questo sia, se così è stato, sia costato un prezzo molto alto, nel senso che saranno state controllate le identità di centinaia di migliaia, se non milioni di persone, e questo ormai è accaduto, continua ad accadere, e le misure nei confronti di questa invadenza, per alcuni più giustificata, per molti altri sicuramente meno, legata alla lotta del terrorismo, è ormai continua. L'altro aspetto è legato a quello che sta accadendo soprattutto in Iraq e in Arabia Saudita, cioè attraverso dei siti i gruppi estremisti islamici hanno mostrato in forma completa i video legati alle esecuzioni di occidentali o il caso dell'ultimo ostaggio coreano. E questo superando anche una certa forma, diciamo, di controllo che c'è e che avviene ormai anche nei paesi arabi. Dunque, diciamo che internet è uno spazio che dovrebbe, per quello che è possibile, rimanere libero, e che in verità è occupato da una parte e dall'altra dai governi, che ne aumentano continuamente il controllo, e anche in parte utilizzato da gruppi terroristici per la diffusione delle loro rivendicazioni. Non credo che sia possibile fino in fondo controllare il web totalmente. Ce ne rendiamo conto anche con la diffusione che avviene soprattutto in Occidente dello spam per quel che riguarda le email, cioè tutte le mail indesiderate. C'è un controllo che avviene in non pochi paesi, diciamo anche lì molto dal basso, per esempio l'accesso alla possibilità e l'acquisto di tecnologie che permettono appunto la navigazione sul web, o se no dei filtri tecnologici, come avviene soprattutto in Cina, sulla rete, che pongono dei limiti agli internauti. In Occidente, per rimanere nelle aree più vicine a noi, c'è un controllo da parte delle forze di sicurezza, soprattutto per quel che riguarda la diffusione di siti pornografici e pedofili. Non credo che sia possibile, forse per fortuna, controllare completamente la rete, anche perché la rete ha una capacità di mutazione, una capacità di rinnovamento quasi istantanea, dunque chiudere un sito e se ne può aprire un altro. Questa è una garanzia di libertà, e naturalmente però c'è anche un tasso di rischio sul fatto che vengano messe in rete delle cose che sono anche non legalmente accettabili. Il rischio del giornalista rimane, perché l'accesso a internet fornisce un'enorme quantità di informazioni, di cui molte devono comunque essere controllate, un'enorme possibilità di contatto con altri giornalisti, con altri gruppi, associazioni, ed è diventato rischioso, come è ancora, penso soprattutto in molte parti dell'Africa, andare in giro a cercare e controllare le notizie, esattamente come accade per un giornalista che per strada o nei luoghi governativi e amministrativi cerca di avere le conferme delle proprie notizie. Allo stesso modo, a svolgere questa attività su internet comporta dei rischi, come appunto è evidente dal numero delle persone incarcerate, soprattutto in governi non del tutto democratici. Per quel che riguarda le istituzioni, come dire, dall'11 settembre le istituzioni hanno preso il sopravvento o comunque hanno enormemente esteso il controllo su internet attraverso delle regole che dovevano essere provvisorie e che in realtà sono ormai divenute stabili. Il Patriot Act in America o anche varie altre leggi, come è avvenuto anche in Italia sul controllo dei dati e sulla conservazione dei dati personali, cosa che per fortuna è stata in parte bloccata, ma comunque c'è un contrasto e un confine molto mobile tra la libertà del individuale, comunque del giornalista, e la possibilità di controllo che hanno le varie forme dell'apparato statale.